L'almanacco dell'altro ieri. L'altro ieri era il 167° giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5:34 e tramontava alle 20:46. La luna calante sorgeva alle 2:31 e discendeva alle 15:04. L'altro ieri, 15 giugno, sarebbe stato meglio non fare giardinaggio. La luna si trovava all'apogeo. In questa posizione, cioè il più lontano dalla Terra, esercitava un'attrazione molto debole e le piante, appena seminate, sarebbero cresciute, deboli e malaticce. L'altro ieri avvenne. Nel 763 a.C. gli Assiri registrano un'eclissi solare. 1215, il re Giovanni d'Inghilterra appone il sigillo reale sulla Magna Carta. 1820, nell'ambito dei moti del 1820 e del 21, a Palermo scoppia una rivolta indipendentista. 1844, Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma. 1864, viene fondata la Croce Rossa Italiana. 1869, John Wesley Hatt brevetta la celluloide. 1977, il Commonwealth delle Nazioni, per boicottare il regime di apartheid applicato in Sudafrica, sottoscrive un accordo decretando l'isolamento sportivo del Sudafrica. 1978, Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto presidente della Repubblica Italiana. 2011, eclissi totale di luna. Moriva il 15 giugno del 1996 Ella Jane Fitzgerald, nota anche come First Lady of Song, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nasceva invece a Calcutta il 15 giugno del 1878 Margaret Abbott. Margaret Abbott è stata la campionessa più inconsapevole della storia. Una vicenda incentrata su una medaglia che in realtà non ha mai ricevuto, vincitrice riabilitata post mortem. Nient'altro che un aneddoto curioso, una leggenda affascinante, lasciata in eredità ai posteri. Su quella partita di golf gli storici dello sport hanno calibrato il senso della sua esistenza. Ferma in un attimo perduto, istantanea di un tempo che non esiste più, come nella fotografia che la ritrae vestita di bianco, con un cappellino alla francese calato sul capo, lievemente inclinato verso il basso nell'atto di colpire la pallina, come in un quadro di Monet. Margaret Abbott ci appare simile alle tante dame parigine ritratte dal pittore durante le loro colazioni sull'erba. D'altronde, il suo abbigliamento suggerisce qualcosa di ben diverso da un incontro sportivo. Margaret Abbott è circondata da donne eleganti e uomini baffuti dagli alti cappelli. Più che a un torneo di golf ha tutta l'aria di partecipare a un ricevimento, una partita disputata per gioco, per noia, per passare il tempo, che ha consacrato la sua fama. Oggi la definiscono una pioniera dello sport femminile. Le sue intenzioni non erano certo tali. Per molto tempo le donne erano state escluse dallo sport olimpico, addirittura non era neppure consentito loro di partecipare alle competizioni. Nel 1900 si assistette alla prima rivoluzione in tal senso, quando furono aperte alle donne le gare di tennis, cricket e golf, considerate attività sportive minori, più casalinghe, che non richiedevano un gran dispendio di forze e di energie, sport più simili a svaghi, distante dalle vere e proprie sfide, che secondo la logica del tempo le donne potevano comodamente praticare in giardino, vestite con i loro abiti ingombranti senza rinunciare a un grammo di grazia e femminilità. La Abbott non intendeva compiere nessuna rivoluzione. Forse, da questo punto di vista, definirla una pioniera sarebbe inappropriato. A lei le cose stavano bene come stavano, non voleva cambiarle. Margaret, detta Peggy, aveva 22 anni, si trovava a Parigi con la madre, la scrittrice Mary Eves Perkins, per un soggiorno di formazione, come si addiceva alle ragazze dell'alta società dell'epoca, studiava arte. In questo contesto culturale ebbe la possibilità di incontrare alcuni tra i più grandi artisti dell'epoca, per esempio Degas, Rodin, e il golf era uno dei suoi punti forti, riusciva a vincere con un'abilità schiacciante, aveva già trionfato in numerose competizioni locali e regionali a casa, a Chicago, era stata definita dai giornali cittadini un'avversaria feroce ma affascinante. In quest'ottica il golf, più che uno sport, appariva come uno strumento di conquista, un affare privato. In un giorno d'estate del 1900 Peggy lesse su un giornale un annuncio. Si cercavano partecipanti per un torneo di golf a 9 buche in una cittadina a nord di Parigi. Decise di prendersi una pausa dagli studi e avrebbe partecipato alla prima competizione olimpica femminile, ma non poteva saperlo. Il 4 ottobre del 1900 la competizione ebbe inizio. Per l'occasione Peggy decise di trascinarci anche la madre Mary, giocatrice meno esperta. Per una fortuita serie di circostanze fu la prima e l'unica volta nella storia che madre e figlia parteciparono alla stessa gara olimpica. Nessuna delle due conosceva il vero valore di quella competizione. Margaret arrivò prima, con un punteggio di 47 colpi, mentre Mary si guadagnò il 7º posto, l'ultimo. Fu anche l'ultima competizione olimpica di golf femminile per oltre 116 anni. La specialità, infatti, sarà riabilitata più di un secolo dopo con le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il lato più curioso della vicenda è tuttavia costituito dal premio assegnato al vincitore, o meglio, alla vincitrice. Non erano previste medaglie per le donne. In perfetta conformità con la mentalità dell'epoca, si riteneva più utile che fossero ricompensate con un oggetto d'arredamento per ornare la casa. Così, Margaret Abbott, prima vincitrice dell'Olimpiade moderna, fu ricompensata con un'antica ciotola di porcellana sassone cesellata d'oro. Senza dubbio il premio più degradante della storia e allo stesso tempo il più emblematico per denunciare la disparità tra i sessi. Agli uomini medaglie, alle donne ciotole di porcellana. Era stata la legittima vincitrice di una competizione olimpica e, di fatto, meritava l'oro, ma non seppe mai del suo trionfo. La verità è che Margaret Abbott ha poi semplicemente continuato la sua vita, che non era certo la vita di una campionessa. Ignara di tutto ciò, 2 anni dopo la sua vittoria a Parigi, Margaret si sposò. Madre di 4 bambini, continuò a giocare a golf solo per proprio diletto. Morì a 77 anni, il 10 giugno del 1955. Persino i suoi figli non avevano mai saputo che la loro madre era stata la prima campionessa olimpica americana, finché non ricevettero una telefonata dall'Università della Florida. Ora le persone lo sanno, Margaret Abbott è stata una delle 11 atlete che hanno partecipato alla prima competizione olimpica del Novecento e la sua vittoria ha costituito un risultato storico per lo sport femminile. Ci raccontano la storia di Martin Lutero, che il 15 giugno del 1520 rischiò la scomunica da parte di Papa Leone X, le ragazze dell'Almanacco. Approfondimento dell'Almanacco dell'altro ieri a cura di Maria Elisa di Riva Ombrosa e Banana Naio. Il 15 giugno del 1520, Papa Leone X emana la bolla Ex Urge Domini, con la quale dà a Martin Lutero 60 giorni di tempo per ritrattare le sue teorie teologiche alla base del protestantesimo, pena la scomunica. Ma vediamo meglio chi è Frate Martino e perché è la personalità che più di tutte nella storia ha avuto successo nel contestare la Chiesa Cattolica. Nato a Eisleben nel 1483, è figlio di contadini e riesce a conseguire il titolo di Baccalaureus Artium, corrispondente all'odierna laurea, e a soli 25 anni già lo troviamo dietro una cattedra dell'Università di Wittenberg a insegnare dialettica e filosofia, anche se la sua grande passione rimarrà per sempre la teologia e lo studio delle sacre scritture. E infatti nel frattempo diventa frate agostiniano. Che dire, una vita fin qui piuttosto tranquilla e ordinaria. Ma dietro a questa immagine pacata e rassicurante si nasconde il tarlo, quel tarlo che porterà Martino ad affrontare faccia a faccia il Papa e a sfidare l'ordine precostituito dalla Chiesa e da tutti i suoi prelati. Ma Martin Luther era letteralmente ossessionato dal rapporto subalterno tra Dio e l'uomo. E nel 1514, rinchiuso nella torre del convento della sua università, come le migliori principesse d'altronde, trova la salvezza e tutto si fa chiaro. 1. Non c'è più spazio per opere di fede, ma solo per la fede in se stessa. È l'onnipotenza divina che sceglie, trasforma il nero in bianco, rende giusto ciò che per sua natura è profondamente ingiusto. È inutile che l'uomo con le sue braccia corte tenti di raggiungere Dio. L'uomo non può lusingare Dio con le buone opere, tanto più che il peccato originale lo porterà di nuovo irrimediabilmente a peccare. 2. Non c'è più intermediario, né più il cattolico caravanseraglio di santi, madonne e martiri. Il fedele parla direttamente con Dio, punto. E per questo è necessario che tutti e tutte possano comprendere la parola di Dio. E non è un caso che Martino in soli 10 mesi riesce a tradurre il Nuovo Testamento in tedesco, riscuotendo un successo pazzesco. Ma soprattutto 3. Non si paga più la gabella al Papa, l'indulgenza. E su questo Martino entra a gamba tesa e nel 1517, disgustato dall'ennesima richiesta di soldi in cambio della purificazione e dell'accelerazione dell'ascesa da purgatorio a paradiso, affligge le famose 95 tesi sulla porta nord della chiesa del castello di Wittenberg e li fa letteralmente neri. Ma poi no, tutti questi soldi che i fedeli versano in odore di santità, che fine faranno mai? Il paradiso non ha saccocce, lo sappiamo, e così si ribecca tutto il Papa, che nel frattempo sta costruendo a Roma la sua faraonica casa, la basilica, anzi la nuova basilica di San Pietro. Comunque, le tesi di Martino hanno un successo inatteso. La sua critica alla Chiesa Cattolica Romana, la sua idea di una religiosità aperta a tutti e tutte e in tedesco, conquista quasi tutta la Germania, tanto da mettere in serio allarme il Papa. Dunque, un gran bailamme che inizia a far tremare il soglio pontificio e il Papa Leone X, su tutte le furie, il 15 giugno del 1520 emana la bolla Ex Urge Domini, con la quale chiede a Lutero di ritrattare le sue tesi. Ma non c'è trippa per gatti, Martino non fa un passo indietro e rincara la dose stampando in migliaia di copie le 95 tesi ampliate. Il mare è dunque in tempesta e Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, prova a riportare l'ordine, organizzando la Dieta a Worms, un incontro ufficiale per discutere con Martino delle sue folli tesi in cerca di una biura ufficiale. Che poi, piccola parentesi, Carlo V, che fa tanto il preciso col Papa, nel 1527 è quello che invade Roma con i Lanzichenecchi e invade pure il Vaticano e distrugge e saccheggia tutto quello che trova. Beffarda la storia, eh? E così, nel 1521, sì, Lutero si presenta a Worms, entra dalla porta, dice quello che deve dire e il giorno dopo se ne va a gambe levate dalla finestra, fingendo un finto rapimento organizzato dal principe Federico III di Sassonia, che sostiene Martino non tanto per questioni di fede, quanto più perché anche lui si è veramente rotto di pagare fior di quattrini al clero romano che vive da parassita nelle sontuose dimore romane. Ed è subito scomunica. E nel frattempo, in molte regioni della Germania, il verbo di Lutero viene letto come un invito ad insorgere contro i soprusi dei ricchi e del sistema feudale che ancora affamano il popolo. Sbagliato, perché Lutero non solo non si schiera con i rivoltosi, ma in più ci mette il carico da 100. Che ragione c'è di mostrare clemenza ai contadini? Se ci sono innocenti in mezzo a loro, Dio saprà bene proteggerli e salvarli. Se Dio non li salva, vuol dire che sono dei criminali. È chiaro dunque che la dottrina luterana non propugna giustizia sociale ed uguaglianza economica, cosa che invece fa un altro personaggio vicino a Lutero, suo amico, è più noto come Thomas Münzer. Lui, figlio di artigiani tedeschi, che accoglie ed apprezza davvero le idee di Lutero, invece, declina il protestantesimo contro i soprusi dei principi, capeggiando e incitando le rivolte dei contadini e dei poveri al grido di battaglia «Omnia sunt communia», «Tutto e di tutti». E ha ben chiare le strutture di oppressione che reggono il sistema che lo circonda. Ecco le sue parole. «Guarda, i signori e i principi sono l'origine di ogni usura, d'ogni ladrocinio e rapina. Essi si appropriano di tutte le creature, dei pesci dell'acqua, degli uccelli dell'aria, degli alberi e della terra. E poi fanno divulgare tra i poveri il comandamento di Dio non rubare. Ma questo non vale per loro. Riducono in miseria tutti gli uomini, pelano e scorticano contadini, artigiani e ogni essere vivente, ma per costoro, alla più piccola mancanza, c'è la forca». E mentre frate Martino invecchia sereno tra le sue carte e i suoi 6 figli, Thomas Münzer, dopo un arduo combattimento a fianco degli sfruttati di Mulhausen, muore decapitato in pubblica piazza il 27 maggio del 1525. Vi lasciamo con un piccolo passo di Q, romanzo del collettivo Luther Blisset, che con poche e succinte parole ci lascia un'immagine nitida di Martin Lutero nel suo tempo. Frate Martino ha mostrato il volto suo vero di soldato dei principi, miserabile compito lungamente celato. Non sarà dunque Lutero a portare il Vangelo all'uomo comune. Thank you. Insomma, oggi mi hanno detto che vedo raccontare di sta magna carta. Innanzitutto possiamo dire che chi era questo Giovanni? Questo si chiamava Giovanni Plantageneto, Giovanni d'Inghilterra o Giovanni senza terra. Gli diedero sto soprannome, ve spiego subito perché. Perché Giovanni, figlio del re Enrico II d'Inghilterra e della duchessa Eleonora d'Aquitania, era il più piccolo dei cinque figli. Chiaro, no? Con tutta la buona volontà, sto Enrico II, quante terre gli poteva lasciare a sto fietto, visto che ce n'aveva già altri quattro da sfamà? E se sa, i principini di solito sono esigenti. Cominciamo subito col dì che sto Giovanni nasce un po' sfigato. Ma, come dice una frase del noto film caro a tutti, il destino è quel che è. E dato che re Enrico era evidentemente meritocratico, a seguito del fallimento della rivolta capeggiata dai fratelli maggiori, Giovanni divenne il figlio prediletto. Tre dei fratelli di Giovanni, forse per la rosicata, Guglielmo, Enrico e Goffredo, morirono giovani. Rimase solo Riccardo, quello famoso, quello guardileone. E quando questo divenne re, nel 1189, Giovanni fu un suo potenziale re al trono. Infatti, e qua si vede lo stile di Giovanni subito, già durante l'assenza di Riccardo impegnata nella terza crociata, come tuo fratello va in guerra santa, che fai te? Prova a ribellarsi contro i reggenti per conquistare potere. Ma non gliela fa, perché deve aspettare la morte di Riccardo, avvenuta nel 1199 per essere proclamato re d'Inghilterra. Però gliela fa. E che fa Giovanni? Dai, si ributta subito a fare la guerra con la Francia e ottiene subito alcune vittorie, ma dato che non era mai stato simpatico a nessuno e aveva fatto i conti senza l'oste, senza il supporto dei nobili normanni, dei bretoni, dell'angioini e in mancanza di risorse militari, perché come diceva mia nonna non si possono fare le nozze coi fichi secchi, alla fine di sta guerra l'Inghilterra e Giovanni ci rimisero de brutto. A terra e soprattutto a sordi. Praticamente che fece Giovannino? Trascorse gran parte del decennio successivo nel tentativo di riconquistare possedimenti e a cercare di recuperare i sordi aumentando le tasse. Siamo arrivati nel 1214. Ormai Giovanni de Vince sui francesi se n'era fatto una ragione e doveva ritornare in Inghilterra. E qui altre ipotesi, che Giovanni fu soprannominato senza terra per tutte quelle che si era perso in Francia. Ma questa pare che sia solo una cattiveria dei satirici di qualche anno dopo. Comunque dicevamo, Giovannino deve rientra in Inghilterra. Rientra che era già impopolarissimo. Perché chiaramente, secondo voi, sta guerra con la Francia, come se l'era pagata il caro re Giovanni? Con le tasse che faceva pagare ai suoi baroni. Perché all'epoca chi ci aveva voce in capitolo, oltre al Papa, erano solo i nobili. L'altri erano contadini che non si potevano sognare di proprio niente. E re, da sti baroni, se l'era fatti pure prestare un po' a dei sordi. E quindi ci aveva i buffi. Se può dire che c'era ben poca fiducia fra le due parti? Se può dire. Certo, un trionfo avrebbe rafforzato la posizione, ma di fronte alla sconfitta. Insomma, ritorna a casa e scopre che i baroni non erano più baroni normali, erano diventati baroni ribelli e nel nord e nell'est dell'Inghilterra stavano organizzando la resistenza. Pensa che te ripensa, Giovanni pensa di chiedere aiuto al Papa e decide di scrivergli una lettera. E come vi raccontavo prima che i contadini contavano meno di niente e si chiamavano vassalli, beh, Giovanni gli scrive nella lettera che lui era un vassallo del Papa. Fece pure il giuramento per diventà crociato. Gli scrivette a gennaio e Papa Innocenzo III gli rispose a aprile. E se vede che la litigata pa' Francia al Papa non gli era andata giù manca a lui. E a aprile, a quel punto, era tardi e i baroni ribelli si erano organizzati in una fazione militare. Si riunirono a Northampton e rinunciarono pure ai legami feudali con Giovanni e marciarono su Londra addirittura. Al nostro re Giovannino non gli era rimasto altro che incontrare i ribelli e sentì che ci avevano da dì. Così, il 10 giugno del 1215, Giovanni incontrò i capi dei ribelli sulla riva sud del Tamigi e qui i baroni ribelli presentarono le loro richieste di riforma. Li chiamarono gli articoli dei baroni. In seguito un accordo generale venne stilato su un testo. E il 15 giugno Giovannino lo firmò e il 19 giugno i ribelli rinnovarono i loro giuramenti di fedeltà a Giovanni. Insomma, tutte queste regole messe insieme vennero chiamate Magna Carta, che poi ho scoperto significa grande carta. Magna, grande, carta, carta. Ora a uno gli viene spontanea la domanda: e chi faceva felice sta carta? Faceva felice i baroni. E allora lo vedi che qui è tutto magna magna. E tutto torna e la ruota gira. Qui finisce l'almanacco. Un saluto a tutte e tutti e soprattutto a chi non c'ha voce in capitolo e aspetta di piassela. È finita la commedia.